Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Subito in apertura la riunione dell'Eurogruppo che discute sul debito greco. I ministri delle finanze della zona euro torneranno quest'oggi a discutere della situazione economica della Grecia. I creditori del governo di Atene dovranno valutare se il paese sta rispettando gli impegni legati al terzo pacchetto di aiuti finanziari concessi al paese a metà dell'anno scorso e del valore di 86 miliardi di euro. Al centro dei colloqui una controversa riforma del sistema pensionistico. I creditori chiedono misure difficili da accettare per un governo guidato da Alexis Tsipras, che ha fatto della lotta contro l'austerità il suo cavallo di battaglia. Lo stesso governo greco ha in Parlamento una maggioranza risicatissima e deve fare i conti nei sondaggi con un evidente rafforzamento del partito conservatore Nuova Democrazia. In ballo vi sono nuovi aiuti finanziari per circa 4-6 miliardi di euro. La riunione di oggi, a livello politico, dovrebbe essere ancora interlocutoria. La lentezza delle discussioni rischia di creare nuova incertezza e pesare ulteriormente sull'economia greca, sempre debolissima. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. A Bruxelles vado con il mandato di rappresentare in maniera forte la visione dell'Italia, che non è una visione nazionale ma di un'Europa più forte, lo ha detto oggi Carlo Calenda, vice ministro dello sviluppo economico e prossimo rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Stati Uniti e Unione Europea raggiungono un accordo importante sulla supervisione dei derivati. Obiettivo dell'Europa è costruire l'unione dei mercati dei capitali a livello globale per una maggiore stabilità finanziaria, urgente vista l'altalena delle borse non solo europee in questi giorni. Un progetto a lungo termine in cui si inquadra il passo avanti dell'accordo ieri tra Stati Uniti ed Europa per coordinarsi sulle regole riguardanti i derivati, prodotti finanziari che furono al centro della crisi finanziaria esplosa su scala globale nel 2008. In pratica i legislatori europei accetteranno le regole riguardanti clearing house americane come fossero equivalenti alle proprie. Finisce così uno stallo che ha complicato gli sforzi per supervisionare un mercato che vale migliaia di miliardi di dollari. Le banche europee, senza l'accordo di equivalenza, avrebbero dovuto sopportare costi maggiori per le transazioni in America. L'intesa tra l'americana Commodity Future Trading Commission e la Commissione europea, il braccio esecutivo dell'Europa, ruota infatti intorno alla regolazione delle clearing house, che aiutano a prevenire il collasso dei mercati e le oscillazioni attuali, garantendo che la parte coinvolta in una transazione di derivati sia pagata se l'altra finisce in default. Vanessa Mock, portavoce della Commissione europea per la stabilità finanziaria. Questo è un importante passo avanti per la convergenza regolatoria su scala globale. Significa che gli operatori europei potranno continuare a scambiare negli Stati Uniti più facilmente e che quelli americani potranno continuare a fornire servizi alle aziende europee. Questa è una buona notizia dopo ben 3 anni di discussioni. Siamo ora nelle condizioni di dare maggiore certezza per i mercati finanziari. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'India e l'Unione Europea si stanno preparando per il loro 13° vertice bilaterale che cercherà di rilanciare il progetto di area di libero commercio e che dovrebbe tenersi a Bruxelles entro la fine di marzo. Lo ha detto, lo ha scritto oggi il quotidiano The Economic Times. E chiudiamo proprio con una notizia che giunge sempre da Bruxelles, che dopo lo stop a sorpresa della Corte Suprema sulle nuove regole americane di riduzione delle emissioni delle centrali energetiche, l'Unione Europea mostra una grande fiducia nel presidente americano Obama, ma intende anche valutare le possibili ricadute sugli impegni assunti con l'accordo di Parigi alla conferenza sul clima COP21. Torniamo questa sera dunque con Europa 24, con il racconto dall'Europa in effetto notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.